Questo è un audiolibro realizzato per il progetto LibriVox. Libera i libri con la tua voce. Questo audiolibro è rilasciato sotto la licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale, condividi allo stesso modo. Audiolibro registrato da Marzia, marzia@cumaves.it. Che cosa è la mafia? Di Gaetano Mosca. Capitolo quarto. Forse il danno maggiore della diffusione dello spirito di mafia in tutte le classi sociali, ma specialmente in quelle elevate, sta nel fatto che è molto difficile di esserne affetti e regolarsi secondo i suoi precetti senza entrare, più o meno, in rapporti e relazioni con quei bassissimi strati della società nei quali si reclutano i delinquenti professionali. Dove infatti il costume impone in certo modo di ricorrere non già alla forza pubblica ma a quella privata per la prevenzione e repressione di torti, di offese, di reati. E si comprende agevolmente che molti guai debba subire l'uomo isolato, che al detto costume non sa o non può ribellarsi e che non è garantito da amicizie ed aderenze numerose fra le persone più capaci di torti, di offese e di reati. Perciò in quelle parti della Sicilia dove la mafiosità è più in auge, un uomo ricco in vista di condizione elevata, che voglia prendere una parte attiva nella vita del paese e diventare, come si dice, un personaggio, facilmente si induce a coltivare relazioni di ogni genere, che vengono in fin dei conti alimentate da una serie di protezioni e di favori con i quali l'alto locato ottiene in ricambio il rispetto di colui che sta in basso. Rispetto che praticamente si esplica non solo con gli inchini e con le scappellate, ma anche principalmente col non fare alcun male e la minima offesa alla persona rispettata, alla sua famiglia, alla sua sostanza e perfino ai suoi amici, con l'impedire che altri li faccia e con l'appoggiarla incondizionatamente nelle sue aspirazioni alle cariche elettive. Lo spirito di mafia, inoltre, fa sì che alcuni altolocati, sindaci, assessori, consiglieri provinciali, qualche volta deputati, non sentano o la sentono molto attenuata quella ripulsione che il vero galantuomo prova verso il falcineroso o l'individuo capace di commettere delitti. Quindi il mafioso d'alta sfera facilmente si induce ad intercedere presso le autorità a pro del suo amico di bassa condizione e non l'abbandona al suo destino se non quando quest'ultimo ne ha fatto di tali e tante che è proprio impossibile di evitarle un viaggio nelle patrie galere. L'amicizia, poi, fra ricco intinto di spirito mafioso e di facinoroso povero, comprende naturalmente infinite varietà, che dipendono dalle circostanze e anche dal diverso carattere degli individui fra i quali si esplica. Ci sono ricchi che nei loro rapporti coi birbanti di bassa sfera mantengono una certa riserva, non ammettono mai al loro servizio o nelle loro intimità i veri delinquenti e delle loro aderenze con la bassa mafia solo si servono a scopo, dirò così, difensivo. E ve ne sono anche di quelli che prendono uno sciagurato gusto a stare in contatto con la gente di malo affare. Si circondano di assassini e di reduci delle galere ed arrivano perfino a distigarli perché nuociono alle sostanze delle persone dei loro nemici. E fra i mafiosi poveri, accanto a coloro che hanno commesso o sono sempre pronti a commettere veri reati, ci sono quelli che si limitano a mostrarsi uomini risoluti, gente di fegato, che all'occasione saprebbe reagire anche col sangue, che esplicano insomma quel minimo di mafiosità che è indispensabile perché siano tenuti di conto e possono mantenere quel rapporto a base di rispetto reciproco con i signori che ai poveri sono tanto utili. Giustizia vuole che si dica come, anche nelle parti più moralmente malate della Sicilia, vi è un certo numero di poveri e di ricchi che, senza ribellarsi apertamente e sistematicamente al costume del paese, lo tollerano e subiscono a malincuore. Non commettono mai una prepotenza e molto meno un reato, né si atteggiano ad uomini capaci di commetterli. Questi individui, se poveri, diventano facilmente le vittime delle vessazioni dei compagni e dei capricci dei padroni. Se ricchi, devono rinunziare a molte legittime ambizioni e le loro sostanze sono ordinariamente prese di mira dai malfattori. Mi si assicura però che, per quanto ciò possa danneggiare le loro finanze, il danno pecuniario che ricevono è quasi sempre inferiore a quello che loro verrebbero dai rapporti troppo intimi ed amichevoli con i malfattori stessi. Ciò significa che quei doviziosi altolocati che questi rapporti a preferenza coltivano non lo fanno per indispensabile necessità, Come non mancano essi di affermare in ogni occasione all'autorità e dei loro amici e conoscenti di Palermo e delle altre città dell'isola, meno impregnate di mafiosità, ma piuttosto per ambizione, per vanità, per voglia di primeggiare in quello speciale ambiente dei centri di mafia al quale essi si sono perfettamente adattati.